Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sintesi panoramica della dottrina islamica. Fonti della dottrina. Fonte diretta della dottrina islamica dell'uomo e del mondo è il sublime Corano e, in virtù dell'autorità magisteriale che il sublime Corano conferisce al profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la bengloria, anche l'insegnamento impartito dal profeta nell'esercizio della sua missione apostolica è fonte di dottrina per il musulmano. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la bengloria, ha insegnato: l'Islam si fonda su 5 pilastri. La professione di fede che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è apostolo di Allah. L'esecuzione del rito di adorazione, il pagamento dell'imposta coranica, il digiuno nel mese di Ramadan e il pellegrinaggio alla casa, obbligatorio per chi ne abbia la possibilità. La casa è la casa di Allah, cioè la nobile Kaaba alla Mecca. La professione di fede, primo pilastro dell'Islam. La professione di fede islamica è il primo pilastro dell'Islam. Essa è la dichiarazione testimoniale, verbale, della verità che nessuno, tranne Allah, ha titolo per ricevere adorazione e obbedienza da parte dell'uomo e della verità che Muhammad, che Allah lo benedica e la bengloria, è veramente profeta e apostolo di Allah. Questa dichiarazione, resa davanti a due testimoni musulmani, introduce formalmente nella comunità musulmana, la Umma islamica, chi la pronuncia, e costui diventa con essa titolare dei diritti e dei doveri che nascono dall'appartenenza all'Islam. La professione di fede deve essere resa spontaneamente, vale a dire ad essere l'espressione di una volontà consapevole e responsabile che si manifesta in virtù di una libera scelta attivata dall'interno e non da una coazione proveniente dall'esterno. Dice infatti Allah nel sublime Corano: La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Non ha da esservi coazione nella scelta religiosa, perché la via diritta si distingue bene dall'errore. La professione di fede, in quanto testimonianza di verità, per essere validamente espressa, richiede la piena capacità di intendere e di volere. Essa presuppone quindi la conoscenza di quella realtà di cui si testimonia la verità. La matrice della volontà che si esprime nell'azione è infatti nella conoscenza. Nella lingua araba, che si fonda sul triliterismo, cioè che tutte le parole tranne poche hanno la loro radice in tre lettere dell'alfabeto, ci sono tre lettere: Ain, Lam e Mim. Quando queste lettere si combinano in quest'ordine danno vita alla parola Ilm. Quando invece si combinano nell'ordine Ain, Mim, Lam, danno vita alla parola Amal. Ora, Ilm e Amal significano rispettivamente conoscenza e azione. Ci può essere conoscenza dell'azione da compiere senza compimento dell'azione, ma mai compimento di un'azione se non se ne conoscono le modalità di realizzazione. La professione di fede islamica presuppone la conoscenza delle verità dell'Islam e ha per sostanza l'impegno a comportarsi coerentemente ad essa. Verità fondamentali. Le verità fondamentali dell'Islam, di cui è obbligatoria la conoscenza, che sta alla base del credo, sono unità, unicità e unipersonalità del creatore dell'universo e dell'uomo, il quale chiama a se stesso Allah, lo status di apostolo e profeta di Muhammad, figlio di Abdallah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Queste sono le verità fondamentali su cui si incardina l'universo dottrinale e comportamentale dell'Islam. Allah. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, è il titolare in esclusiva della qualità divina, che consiste nel possesso in esclusiva di onnipotenza, onniscienza, onnipresenza, onniveggenza, onniaudienza, onniagenza, in quanto creatore di tutto ciò che esiste e autore delle leggi che governano gli universi, quello visibile e quello invisibile. Queste qualità Allah non le condivide con nessun soggetto e con nessuna cosa. Nessuno e nulla nel creato possiede la qualità divina. La qualità divina di Allah è incondivisa. La conoscenza umana del divino ha come sua fonte informativa la rivelazione, rivelazione di cui è autore lo stesso Allah. L'uomo, infatti, ha la possibilità di conoscere solamente le realtà create che rientrano nel perimetro della sua esperienza, che possiamo definire filosoficamente con la parola esistente. Allah è l'ente creatore dell'esistente creato, per cui la conoscenza di lui non proviene dall'esperienza, bensì dalla rivelazione con la quale l'ente creatore si rende oggetto di conoscenza da parte dell'esistente creato, l'uomo. La fonte della conoscenza di Allah da parte dell'uomo è, in ultima istanza, la rivelazione coranica, cioè il sublime Corano, il quale è la parola di Allah l'Altissimo, che prende forma visibile nelle lettere della lingua araba e forma sonora nelle parole della lingua stessa. Il sublime Corano. Il sublime Corano è la comunicazione divina indirizzata a tutta l'umanità, nella quale Allah l'Altissimo dà all'uomo la consapevolezza della condizione umana, la consapevolezza del significato escatologico della sua esistenza terrena, del suo destino e una consapevolezza della vita futura. Inoltre, indica la via da percorrere a livello di comportamento per realizzare una buona condizione umana in questa vita e una condizione migliore nella vita futura. In questa comunicazione salvifica, l'autore di essa dà anche indicazioni riguardo a se stesso e riguardo all'uomo da lui scelto, al Mustafa, per diffondere il suo messaggio all'umanità, cioè il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, al quale egli, oltre alla missione di comunicatore, di interprete, di modello di vita, conferisce anche una potestà normativa. Il sublime Corano è il codice di vita fondamentale per chi crede nella provenienza divina di esso e nella missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Sicché, in grazia delle attività inerenti all'esercizio della missione apostolico-profetica, anche le regole di vita dettate dal profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, con i suoi precetti e con i suoi esempi, hanno vigore di legge come equivalenti a quelle del sublime Corano. Valore dichiarativo della professione di fede. La professione di fede resa in pubblico, in quanto testimonianza resa davanti a due musulmani maggiorenni e capaci e documentata da un atto scritto, non ha valore costitutivo della qualità di musulmano, bensì valore dichiarativo. La qualità di musulmano, infatti, la si acquista mediante la pratica del sublime Corano e della nobile sunna dell'apostolo di Allah, a prescindere dalle formalità dell'atto ufficiale che la documenta. Per chiedere la formazione documentale della propria dichiarata identità islamica, il richiedente deve credere nelle verità dell'Islam e mettere già in pratica quegli atti dei quali è dovuta l'esecuzione continuativa, come esecuzione del rito di adorazione quotidiana, abbigliarsi nel rispetto delle norme del codice di abbigliamento islamico, mangiare e bere cibi e bevande di cui è islamicamente lecito il consumo e, in definitiva, praticare ciò che è dichiarato lecito e astenersi da ciò che è dichiarato illecito. Per essere musulmano, cioè entrare a far parte dell'Islam, intendendosi con la parola Islam la comunità mondiale dei musulmani, non vi è bisogno di alcuna cerimonia. L'Islam, infatti, oltre a essere la religione della razionalità, concorda pienamente con le disposizioni naturali dell'uomo. Ogni creatura umana viene al mondo con queste disposizioni naturali. Nessuna trasformazione esteriore è richiesta per essere musulmano. Si può esserlo senza dirlo a nessuno. La conversione ufficiale all'Islam è un fatto di ordine puramente formale e organico, e il documento che la certifica ha valore dichiarativo e non costitutivo. Conoscere per credere. Ecco quello che è necessario sapere e saper esporre, e in cui è necessario intimamente credere. Questo perché chi riceve la testimonianza non può entrare nell'animo del dichiarante per sapere se ciò che il dichiarante dice corrisponda a quello che interiormente sente. La buona fede è presunta fino a prova contraria. Allah l'Altissimo, però, conosce quello che gli uomini racchiudono nei loro petti e, se le parole del dichiarante non sono espressione della sua convinzione interiore, Allah l'Altissimo lo vede e provvede. Quel che bisogna sapere è che l'Islam si basa su tre credenze fondamentali, che sono: 1. La fede nella unicità, unità e unipersonalità del Creatore onnipotente e onnisciente, il cui nome proprio è Allah l'Altissimo. La fede nel destino ultraterreno dell'uomo, la fede nella missione profetica che è sempre esistita e ha avuto in Adamo, su lui la pace, il primo incaricato di essa da parte di Allah, e in Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il suo sigillo. Significato della parola Islam. La parola Islam nella lingua araba ha la stessa radice della parola pace, salam. Islam significa linea di condotta che nasce dalla traduzione in pratica del codice di vita rivelato da Allah l'Altissimo, perché in essa si realizzi la pace dell'uomo con il suo creatore, la pace dell'uomo con se stesso, la pace nella famiglia, la pace nella società, la pace con tutto il creato, con le creature animate, diverse dall'uomo, e con le realtà inanimate. Consapevolezza e sottomissione. Quando l'uomo ha preso coscienza che dalla sua obbedienza a questo codice di vita non deriva un accrescimento della qualità divina di Allah, l'Altissimo, ma un accrescimento della sua qualità umana, ecco che egli si affida completamente al volere di Allah, l'Altissimo, perché è cosciente che nessuna creatura può offrirgli un codice di vita non solo migliore di quello datogli dal Creatore, ma neppure di uguale valore. Questo codice di vita è nel sublime Corano. Allah, l'Altissimo, per mezzo del sublime Corano, offre all'uomo la possibilità e il criterio di conoscere il bene e il male, di distinguere il vero dal falso, nonché lo strumento per elevarsi e purificarsi. È da questa coscienza che nasce la consapevole pratica del codice di vita di matrice divina, cioè una sottomissione spontanea alla legge divina. Islam, unica via di salvezza. Nella dottrina coranica rivelata da Allah, l'Altissimo, il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non è il solo profeta di Allah, ma l'ultimo dei numerosi messaggeri di Allah, il sigillo dei profeti, dopo il quale non ci sono stati e non ci saranno fino alla fine dei secoli altri inviati e messaggeri di Allah. Il musulmano, cioè colui che credendo nella unità, unicità e unipersonalità di Dio e nella missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, mette in pratica il sublime Corano e i nobili esempi di vita del profeta, che Dio lo benedica e la ben gloria, crede che Dio ha inviato a tutti i popoli della terra suoi messaggeri, su tutti loro la pace, per diffondere la sua parola e annunciare la sua legge. Crede che Allah l'Altissimo ha fatto scendere rivelazioni scritte, i suoi libri, l'ultima delle quali, il sublime Corano, riassume in una forma precisa e non falsificata né falsificabile le scritture di tutte le epoche e di tutte le nazioni, sicché solamente in quest'ultima rivelazione divina l'uomo può trovare la via della salvezza dalle disastrose conseguenze dell'abboccare agli artifici di Satana, su Allah e alle tentazioni della vita terrena. I sei articoli di fede. La dottrina che deriva dall'insegnamento di Allah l'Altissimo e quello del profeta si fonda su sei articoli di fede che sono essenziali ai fini della salvezza dal fuoco. Il musulmano infatti crede in Allah, come lui si è identificato nel sublime Corano, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi inviati, nella vita futura e nella provenienza dal decreto divino del bene e del male. Uno dei tanti pregiudizi è quello che riguarda la provenienza del bene e del male dal decreto divino e la predestinazione. Decreto divino e predestinazione vengono ritenuti fonte del fatalismo e quindi incentivo alla pigrizia e all'inazione. Il musulmano, al contrario, non crede né alla fatalità né alla predestinazione come intesa dalla cultura occidentale, ma crede invece nell'esistenza di leggi mutabili ed eterne che separano il bene dal male, il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, l'autore delle quali è Allah, il creatore di tutto ciò che esiste. Tutte le realtà create da Allah l'Altissimo sono bene in quanto realizzazione della sua volontà, anche se a livello umano possono apparire ed essere sentite come male. Il primo articolo. Il musulmano crede senza incertezze nell'unità, unicità e unipersonalità di Allah, perché così egli, l'Altissimo, identifica se stesso nel sublime Corano. Crede senza incertezze alla missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in quanto è Allah che nel sublime Corano ne proclama lo status di profeta e apostolo. Il musulmano adora solo Allah, in quanto egli è l'unico creatore di tutto ciò che esiste. Obbedisce solo ad Allah, in quanto egli, l'Altissimo, è l'unico legislatore dell'universo. Invoca in soccorso solo Allah, l'Altissimo, in quanto egli è l'unico onnipotente. Crede con certezza incrollabile alla verità della rivelazione coranica, di cui Allah, l'Altissimo, è autore, poiché egli è l'unico infallibile onnisciente. Allah, l'Altissimo, è la fonte della guida sicura per l'uomo sulla via che conduce al paradiso. Allah è, come egli afferma di se stesso, l'ente che ha creato l'esistente, che al suo creatore, cioè ad Allah, ritorna. Egli è indivisibile nella sua essenza, è la luce dei cieli e della terra, il glorioso, il sublime, l'infinito, il primo e l'ultimo. Egli dichiara esplicitamente di non essere padre, sicché quando nelle mitografie della missione del Cristo, il Messia Gesù figlio di Maria, intitolate Vangelo secondo ciascuno degli evangelisti, si riporta che il Messia Gesù abbia chiamato Allah, il Dio, con l'espressione il Padre mio, la ragionevolmente giusta lettura del testo è quella che coglie nell'espressione non già il significato letterale, ma una metafora della unicità di Allah, il Dio, e della sua misericordia. Allah è l'Onnipotente, e quando il Cristo Gesù indirizzava, come si afferma nelle succitate storie della sua missione, la sua preghiera al cielo, questo fatto è da leggere come una immagine della sublimità di Allah e non già come indicazione del posizionamento spaziale di Allah. Credere non basta. Quelli che fino a questo momento sono stati esposti sono gli elementi essenziali del credo, in cui il musulmano deve avere una solida fede insuscettibile di tentennamento. La fede però senza l'azione è lettera morta. La sola fede infatti non è sufficiente alla salvezza dal fuoco dell'inferno, poiché è dall'azione, cioè dalla pratica del codice di vita islamico, che la presenza di fede nel cuore è segnalata e autenticata come vera fede. Non ha senso nell'Islam la frase «sono credente ma non praticante». La creatura umana, in relazione al significato escatologico della sua esistenza terrena, che è il banco di prova della sua fedeltà ad Allah in vista della vita futura, è stata dotata della capacità di scegliere tra diverse opzioni esistenziali, e ciò con conseguente responsabilità personale delle azioni. Ogni creatura umana porterà il suo fardello e nessuno sarà chiamato a rispondere dei peccati di un altro. Un codice di vita onnicomprensivo con finalità terrene e ultraterrene. L'Islam è la religione dell'unicità indivisibile della qualità divina di Allah e della pari dignità delle creature umane davanti a Lui. Gli uomini, benché vengano al mondo in situazioni differenti, in quanto figli tutti di un unico padre, Adamo, su lui la pace, e creature di un unico creatore, Allah, l'Altissimo, hanno ricevuto un codice di vita per vivere bene in questa vita e conseguire il paradiso nella vita futura. Questo codice di vita, il quale regola oltre che il rapporto dell'uomo con Dio, anche i rapporti fra gli uomini e i comportamenti che l'uomo deve tenere verso gli animali e l'ecosistema, ha come fine quello di realizzare una cooperazione fra tutte le creature umane e, dando loro la consapevolezza della loro discendenza da un unico padre che Allah creò dalla polvere, far emergere il dovere della solidarietà umana in ciascun individuo. Il timore di Allah, indice di superiorità. Nell'Islam non c'è spazio per superiorità o inferiorità tra gli uomini a motivo di nazione, condizione, colore, casta. L'umanità intera è una sola famiglia e per questo motivo nell'ottica islamica l'arabo e il non arabo, il bianco e il nero, il rosso e il giallo sono legati in una sola fratellanza umana universale. Nessuno è superiore a un altro se non nel timore di Allah, cioè nell'osservanza dei suoi comandamenti. La ricerca del sapere. Nella visione islamica dell'uomo, la ricerca del sapere e l'acquisizione della conoscenza in ogni campo dello scibile è un dovere del musulmano, uomo o donna che sia, dalla culla fino alla bara, in quanto il sapere innalza la condizione dell'uomo sia sul piano materiale che su quello spirituale. L'opinione personale motivata e lo scambio di idee, sempre nel quadro dell'ortodossia, sono segno, secondo un detto profetico, di una speciale grazia divina. Il lavoro nobilita. L'uomo ha il dovere di svolgere attività islamicamente lecite per procacciarsi i mezzi necessari ad assicurare una dignitosa condizione di vita a sé e alla propria famiglia. Il lavoro, svolto con diligenza e nel rispetto delle regole dell'arte, è tenuto in grande considerazione nell'Islam, mentre l'ozio e le attività parassitarie sono oggetto di grande riprovazione. Lo svolgimento di attività lavorativa dà diritto al compenso pattuito con il beneficiario dell'opera e questo compenso deve essere dato a chi ha lavorato, come prescritto dal profeta, che Allah lo benedica e la vien gloria, prima che si asciughi il sudore dalla sua fronte. Come guadagnare e come spendere? La ricchezza è dono di Allah l'Altissimo, il quale nel codice di vita che egli ha dato all'uomo ha stabilito che la ricchezza, oltre a essere guadagnata in modo lecito, deve essere anche impiegata in modo lecito a beneficio proprio della propria famiglia e della comunità. La generosità è uno degli aspetti importanti della personalità islamica, mentre l'avarizia e la grettezza sono riprovate dall'Islam. È doveroso e altamente meritorio aiutare, nella misura dei mezzi disponibili, il povero e il bisognoso. Gli altri pilastri. Oltre alla testimonianza della propria fede nell'unità, unicità e unipersonalità di Allah l'Altissimo e nella missione apostolica profetica di Muhammad, il musulmano ha i seguenti doveri. 1. Eseguire il rito di adorazione 5 volte al giorno, nei tempi, nelle condizioni, nei modi prescritti dall'esempio datone dal profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, il quale disse: eseguite il rito di adorazione come avete visto eseguirlo da me. Il rito di adorazione è il momento vitale dell'esistenza del musulmano, come è vitale che il paletto centrale della tenda beduina stia in piedi, perché la tenda con la sua ombra protegga il beduino dai raggi infuocati del sole del deserto. 2. Il digiuno nel mese di Ramadan. Esso migliora il corpo e l'anima, ravviva i sentimenti di amore verso gli uomini, gli animali e le piante. È uno strumento efficacissimo di controllo dell'istinto di conservazione individuale e di quello di conservazione della specie per acquistare il dominio di sé. Digiunare per amore di Allah è fonte di innumerevoli grazie in questa vita e una caparra per il paradiso nella vita futura. L'imposta coranica. Allah, che è il datore della ricchezza, ha disposto che per quanto riguarda l'oro, l'argento, il denaro e le merci, il musulmano che possegga per un anno una quantità di ciascuno di questi beni equivalente o superiore al valore di 96 grammi di oro deve versare alla cassa della comunità una somma pari al 2,50% degli importi del valore per soddisfare le esigenze di tenore di vita dignitoso per i poveri e gli indigenti e per gli altri destinatari di essa indicati dal Corano. Questo è un obbligo legale del musulmano, ma la generosità è promossa da Allah nella misura dei mezzi disponibili, sicché il musulmano ricco non si limita alla somma quantificata dall'imposta coranica, ma elargisce generosamente in aiuto dei poveri con l'elargizione spontanea, che si chiama sadaqa. Il pellegrinaggio alla Mecca è dovere fondamentale del musulmano quando ne abbia le capacità fisiche e le possibilità economiche di andare in pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Il musulmano non adora né la nobile Kaaba, la casa terrena di Allah, né la pietra nera, segnale che indica il punto di inizio e di fine dei sette giri intorno alla nobile Kaaba, il rito che si chiama al-Tawaf, ma adora esclusivamente Allah, che ha ordinato il pellegrinaggio, al-Hajj. I pellegrini, giungendo da differenti paesi, hanno occasione di conoscersi e ciò conosce un fondamentale fattore di solidarietà della comunità islamica mondiale. Necessari chiarimenti. Islam e Shemitar. Il sublime Corano, cioè il verbo divino, formalizzato nelle lettere dell'alfabeto arabo dal punto di vista grafico e nelle parole della lingua araba dal punto di vista fonetico, prescrive che nessuno deve essere forzato alla pratica dell'Islam e proibisce ogni azione aggressiva. Tutte le guerre che i musulmani hanno combattuto furono lo sforzo per difendere la religione e la fede dall'aggressione e per liberare l'uomo dal dominio dell'uomo, non per imporre l'Islam con la scimitarra nei territori conquistati, non già dalla ragione della forza, ma dalla forza della ragione, che è il cuore della parola di Allah. Quando nel mondo islamico i capi dei diversi paesi entrarono in guerra per le loro ambizioni di potenza, essi incominciarono a decadere dagli alti livelli che i loro predecessori avevano raggiunto con l'osservanza del codice di vita islamico. La responsabilità delle deplorevoli condizioni sociali, culturali, politiche e morali in cui versa in generale, pur con ragguardevoli eccezioni, l'area geopolitica ove un giorno regnò sovrana la parola di Allah, è dovuta all'azione nefasta degli inganni della vita terrena dilaganti in quell'area ad opera delle forze del male, che hanno per obiettivo quello di allontanare le masse dalla pratica dell'Islam. Libertà di pensiero e di azione. L'Islam dà piena libertà di pensiero e di azione, offre all'umanità e all'anima i mezzi per progredire ed elevarsi con l'esercizio delle nobili virtù indicate da Allah l'Altissimo e con la pratica di quelle regole di vita date da Lui allo scopo di realizzare il bene individuale, familiare e sociale. Questo disturba i circoli di potere che vedono nel progetto di liberazione dell'uomo dal dominio dell'uomo, di cui l'Islam è portatore, un pericolo per la stabilità dei loro meccanismi di sfruttamento e di oppressione. Per questo l'Islam viene oscurato, denigrato, perseguitato in ogni sistema di dominio dell'uomo sull'uomo. La condizione femminile nell'Islam. Uno degli argomenti che vengono portati come strumento di denigrazione dell'Islam è la distorsione dell'immagine della realtà della condizione femminile. Sostengono infatti i denigratori che la donna è tenuta in condizioni di inferiorità, schiavizzata, senza diritti e che più ne ha più ne mette. La verità naturalmente è diametralmente opposta a quanto i denigratori affermano. L'uomo e la donna sono stati creati dalla stessa materia e sia l'uno che l'altra hanno le medesime disposizioni all'azione intellettuale, a quella spirituale e a quella morale. Allah l'Altissimo, che dell'uomo e della donna è il creatore, pone l'uomo e la donna davanti alle stesse responsabilità, ma nella sua qualità di creatore, in funzione al raggiungimento ottimale per cui egli ha creato la diversità sessuale, ha dato regole per l'uomo e regole per la donna, secondo il principio che ognuno resti nel suo posto naturale e operi nell'ambito assegnatogli dal creatore. Il posto naturale della donna, in base al principio della divisione del lavoro, che è il fattore essenziale del successo di qualsiasi associazione, è quello di occuparsi di suo marito come compagna della sua vita e come madre dei suoi figli. In altri termini, Allah le ha assegnato il compito di dirigere con prudenza la sua casa, di alleggerire intelligentemente a suo marito il peso del lavoro quotidiano, di educare i figli nell'Islam creando per essi con il coniuge un ambiente familiare armonioso tale da favorirne una crescita equilibrata. Quando la donna passa la maggior parte della giornata in ufficio o in fabbrica, salvo nei casi di estrema necessità, ella spende la propria esistenza fuori dall'ambito delle funzioni fondamentali che l'Altissimo ha assegnato a lei perché essa possa vivere in pieno la sua femminilità e contribuire così alla realizzazione di una società formata da individui sani nel corpo, nella mente e nel sentimento della propria dignità umana. Per i motivi succintamente sopra esposti, la donna nell'ordinamento islamico della società è altamente considerata e rispettata. Se nell'area geopolitica chiamata mondo islamico in alcuni casi la donna è messa in una posizione di inferiorità, ciò è dovuto non già al fatto che nell'Islam la donna è inferiore all'uomo, ma al fatto che in quei casi coloro che mettono la donna in posizione di inferiorità non mettono in pratica l'Islam. In questo campo la condizione di inferiorità della donna nell'Islam si sono cimentati e si cimentano scrittori e scrittrici che fanno di un sassolino una montagna, generalizzando episodi isolati di aberrazione dell'Islam come se fossero la quintessenza dell'Islam. E questo non solo da parte di eurointellettuali al servizio della conservazione del dominio dell'uomo sull'uomo, vigente nelle grandi potenze occidentali e nelle piccole, ma anche di intellettuali con nomi musulmani ma con opere dichiaratamente anti-islamiche che le case editrici occidentali pubblicano e ripubblicano per creare nelle masse femminili dell'Occidente odio, paura, disprezzo dei musulmani dell'Islam e produrre così il rifiuto di ascolto del messaggio islamico di liberazione della donna nel quadro della liberazione dell'uomo dal dominio dell'uomo a tutela degli interessi di potere dei loro padroni, che per questo profumatamente li pagano. Quando sei diventato musulmano, devi dire e praticare quanto segue. Se Allah l'Altissimo ti ha dato il permesso di credere, non è dato infatti a nessuno di credere senza il permesso di Allah, istruito dall'insegnamento divino, devi dire: io credo in un unico Iddio, Allah, rifulga lo splendore della sua luce, il quale non ha compartecipi a nessun titolo della sua essenza divina. Egli, l'Altissimo, è l'ente che crea l'esistente, sicché nessuna realtà del creato, sia essa animata o inanimata, possiede qualità divina che appartiene in esclusiva ad Allah, l'Eterno, l'Onnipresente. Io credo che Allah, l'Altissimo, nel corso della storia fino a Muhammad, che Allah lo benedica e la benigna, ha affidato a degli uomini la missione apostolico-profetica, accreditandoli come suoi messaggeri con dei miracoli da lui compiuti per mezzo di loro e nominandone i principali nel sublime Corano, il sapiente ricordo, tra i quali egli ricorda Adamo, Noè, Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide, Salomone, il Cristo, cioè il Messia, Gesù figlio di Maria, e Muhammad, il sigillo della profezia, che Allah li benedica ed abbia in gloria tutti insieme. Io riconosco a tutti loro la dignità di apostoli e di messaggeri di Dio senza discriminazione. Io domando soccorso e me lo aspetto solamente ed esclusivamente da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, e a Lui soltanto domando perdono dei miei peccati, senza la mediazione di alcuno. Io non dimentico Allah, rifulga lo splendore della sua luce, un solo istante, ne sento la presenza dovunque e regolo la mia vita in base ai suoi precetti, ai precetti che sono enunciati nel sublime Corano e nella nobile sunna dell'apostolo di Allah, la pratica di vita, cioè esemplificata dal profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la benigloria. Io metto in pratica i 5 doveri fondamentali del musulmano, i 5 pilastri dell'Islam, i quali sono la struttura portante del codice di vita islamico, che abbraccia tutti gli aspetti dell'esistenza umana eseguo quotidianamente i riti di adorazione comandati e quelli facoltativi, faccio il digiuno nel mese di Ramadan e quelli facoltativi, pago l'imposta coranica obbligatoria e faccio della beneficenza secondo possibilità spontaneamente, faccio, avendone la possibilità, il grande pellegrinaggio alla Mecca e il piccolo pellegrinaggio, rispetto le norme del codice alimentare e del codice di abbigliamento, rispetto le norme del codice familiare e del codice commerciale e tutte le norme che ordinano il bene e proibiscono il male, come insegnate nel sublime Corano e nella nobile Sunna. Io rispetto l'integrità fisica mia e degli altri, per cui non mi suiciderei mai, né mai commetterei volontariamente omicidio, non commetto adulterio ed evito tutte le occasioni che possono perdermi, poiché tutti sappiamo che la carne è debole. Le vere gioie sono quelle che ci procuriamo senza dovercene pentire e sono quelle che si godono per mezzo dei sentimenti elevati dell'anima e che vengono salvaguardate dalle nostre forze spirituali. Io rispetto la dignità personale mia e degli altri, non racconto quindi storie lesive dell'onore del prossimo, soprattutto quando si tratta di ciò da cui il Corano ci mette in guardia, il colpire qualcuno alle spalle quando non ha possibilità di difendersi. Io rispetto il patrimonio degli altri, non mi approprio del patrimonio della vedova e dell'orfano, se ne sono nominato tutore, traendo vantaggio dalla loro impossibilità di proteggersi da me. Mantengo le mie promesse e tratto tutti gli affari che intraprendo con perfetta onestà. Non gioco mettendomi al rischio di perdere neanche piccole somme, poiché il giocatore e lo speculatore perdono il rispetto dei loro guadagni. È una deplorevole debolezza di carattere mettere a rischio di perdita in un gioco di carte o d'azzardo i beni che Allah, l'Altissimo, ci mette a disposizione. Io non chiedo in prestito né presto denaro a interessi, poiché questo è il cammino della rovina. Il musulmano può fare un prestito per aiutare un bisognoso, se può farlo, e gli è anche lecito chiedere garanzie per la restituzione, ma non può prendere in garanzia cose di prima necessità come gli oggetti domestici. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.